La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato allo sbarco dell'uomo sulla Luna, di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario. Ospite ai nostri microfoni il giornalista Dario La Ruffa, autore del volume Lo spazio tricolore, storie di uomini che hanno visto le stelle, edito da UTET. Nella seconda parte vi proponiamo un radiodocumentario sullo scontro civile che ha coinvolto la città di Saigon durante la guerra del Vietnam. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel giovedì 4 giugno alle 16:05. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Ha toccato il suolo lunare. È il 20 luglio del 1969, poco meno di 40 anni fa. Il lemme dell'Apollo 11 è sulla Luna e questo che avete appena ascoltato è un passaggio della storica diretta della RAI effettuata dallo studio 3 di Via Teulada a Roma. Il LEM, con a bordo gli astronauti americani Edwin Aldrin e Neil Armstrong, tocca la superficie nei pressi del margine del Mare della Tranquillità. Il modulo di comando è affidato al pilota Michael Collins. Per la prima volta l'uomo sbarca sulla Luna. È un evento storico. Il volo storico dell'Apollo 11 era iniziato il 16 luglio. Armstrong mise piede sul suolo lunare con le parole: «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un balzo gigante per l'umanità». L'astronauta venne raggiunto da Aldrin e insieme camminarono 2 ore sulla superficie della Luna, sperimentando una forza di gravità pari a un sesto di quella terrestre. Raccolsero 21 kg di campioni del suolo, scattarono fotografie e installarono un apparato sperimentale per l'analisi del vento solare, un riflettore laser e un laboratorio per misure sismiche. Issarono quindi una bandiera statunitense e comunicarono via satellite con il presidente statunitense Richard Nixon, mentre milioni di persone seguivano in diretta la trasmissione. Armstrong e Aldrin lasciarono il satellite utilizzando lo stadio superiore dell'EM e sfruttando quello inferiore come rampa di lancio. Il modulo di risalita venne abbandonato dopo l'aggancio con il modulo di comando e i 2 astronauti si trasferirono di nuovo nella navicella, che ammarò il 24 luglio nell'Oceano Pacifico, vicino alle Hawaii. Bene, quello sbarco è entrato nella storia. Forse non tutti sanno però che l'uomo che pronunciò il fatidico go nella sala di comando di Cape Kennedy, da cui partì l'Apollo 11, era un italiano. A svelarci questo inedito particolare è un libro pubblicato da UTET Libreria, Lo spazio tricolore, storie di uomini che hanno visto le stelle, scritto da Dario La Ruffa, giornalista e conduttore del TG2, volto noto a tutti voi, che oggi è in studio con noi. Benvenuto Dario, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera Dino e buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Allora, la prima cosa, come si chiamava questo italiano che prese parte allo storico evento? Si chiamava Rocco Vedrone, figlio di emigranti dalla Basilicata, lo chiamavano la tigre dentro la NASA perché era durissimo, spietato con i tecnici, e perché era spietato perché sapeva che dal lavoro dei suoi tecnici dipendeva la vita degli astronauti che avevano la sua età, però lui insomma li trattava come figli. E poi allora, visto che la nostra è una trasmissione di storia, vogliamo fare un po' di storia, Dario? Senti, facciamo un po' di preistoria, cominciamo dai 60 telescopi di Galileo e siamo agli inizi del 1600. Ricordiamo che è vero che insomma il volo dei fratelli Montgolfier è del, per carità, chi toglie loro il primato, è del giugno dell'83, però non tutti sanno che un anno prima Tiberio Cavallo, professore della Reale Società di Londra, ma napoletano, fece un esperimento in laboratorio e fece sollevare un pallone di intestino di bue riempito di idrogeno, ed era un anno prima dei Montgolfier. E poi, molto molto più vicini a noi, vi voglio raccontare la storia di Antonio Ferri, che era un ingegnere italiano ai tempi del fascismo, era geniale, famoso a livello internazionale, faceva delle ricerche in una galleria del vento supersonica a Guidonia. Lui scappò dall'Italia nel 1944 letteralmente coi fogli sotto il braccio, infilato in un sommergibile americano che lo portò in Virginia. Ecco, allora adesso affrontiamo sì. la storia vera e propria. Beh, l'Italia, sì, è vero, perché qui mi sono fatto prendere, ecco. Sì, confesso, perdono. L'Italia ha fatto molto per la conquista dello spazio, se ne ricorda poco, molto poco, troppo poco. Noi siamo stati il terzo paese a mandare in orbita un satellite, il San Marco, nel dicembre del 1964. I primi due erano stati nell'ordine l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, non due paesi qualsiasi. Noi oggi costruiamo il 40% delle stanze, diciamo così, nella stazione spaziale, che può essere chiamata la casa dell'uomo dello spazio. Siamo i primi ad avere una costellazione di satelliti che osservano la Terra, che si chiama Cosmos SkyMed, e poi ci sono grandi imprese, Alenia Space per esempio del spazio, ma anche collegate con le università, una rete di piccole imprese che sono molto molto innovative. Sta per partire un razzo italiano, si chiamerà Vega. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Ecco, in questo spazio tricolore, storie di uomini che hanno visto le stelle che tu racconti, ci sono dei grandi vecchi italiani? Ci sono tre grandi vecchi. Allora, il primo, Edoardo Amaldi, grandissimo fisico, noto come la persona che fece partire il CERN in Svizzera. È meno nota la sua passione per lo spazio. Lui pensava addirittura, dopo il lancio dello Sputnik nel 1957, ai sovietici, fu molto molto impressionato e parlava di Euroluna, voleva che anche l'Europa fosse presente in questa grande competizione fra Stati Uniti e Unione Sovietica. E poi c'è Luigi Broglio, professore militare, che fu il papà appunto del satellite San Marco. E poi c'è anche una persona che si chiama Antonio Rodotà, sono morti tutti e tre in anni diversi, che è stato l'italiano Antonio Rodotà, fratello di Stefano, che racconta tra l'altro il suo fratello nel libro, che è stato l'italiano che ha avuto il ruolo più importante all'interno di un'istituzione internazionale. È stato direttore dell'Ente Spaziale Europeo. È importante perché sono tre persone diverse. L'uno era uno scienziato puro, l'altro era un militare e uno scienziato, il terzo veniva dal gruppo Finmeccanica, era un uomo di industria. Quindi astronauti italiani, anche noi tra le stelle. Anche noi tra le stelle. Tra l'altro adesso abbiamo anche una donna di 32 anni, il tenente Samantha Cristoforetti, che è un tenente, uno top gun dell'aeronautica, e anche un ingegnere che pilota i jet, ha studiato in Russia e in America, e volerà 2013-2014 assieme al capitano Luca Parmitano. Però prima di loro ci sono stati altri italiani, due sono ancora in azione. Vittori fra poco farà il terzo volo, ha sempre volato su capsule Soyuz, adesso volerà su uno shuttle. Nespoli si preparerà a stare a lungo nella Stazione Spaziale Internazionale, e prima di loro c'erano stati nell'ordine Malerba, Guidoni, Cheli. Torniamo per un attimo insieme, Dario, ai grandi progetti che hanno visto protagonisti gli italiani tra le stelle. Beh, insomma, allora, abbiamo detto del San Marco, che fu una cosa veramente straordinaria, perché noi lanciamo per la prima volta questo satellite, prima negli Stati Uniti con un razzo americano, poi da una nostra base nella seconda volta nel 67 con un razzo sempre americano, ma da una base italiana in Kenya. E fu un elemento veramente di grande importanza. Ci fu subito dopo il primo lancio un incontro fra Fanfani, che allora era presidente del Consiglio, e De Gaulle all'Eliseo. De Gaulle disse a Fanfani: sa presidente, vogliamo fare qualcosa per lo spazio. E Fanfani disse: sì sì, anche noi abbiamo appena lanciato un satellite. E raccontano le cronache che De Gaulle andò su tutte le furie, proprio una cosa incredibile. Poi anni dopo venne il Sirio è la doppia stella alfa della costellazione del Cane Maggiore, ma in questo caso è un'altra cosa. Si chiama Satellite Italiano per la Ricerca Industriale Operativa. Fu un satellite molto molto importante perché è il primo prodotto industriale spaziale italiano. Qualcosa che riguardi il futuro della nostra presenza sulle stelle, e l'altra è una curiosità personale: a cosa si deve questo interesse per gli uomini che hanno visto le stelle, gli astronauti italiani? Cominciamo con rispondere alla seconda domanda. È stato un caso, però lo spazio francamente, guarda, ti appassiona mano a mano che lo prendi. Il futuro si chiama Marte. È lontano dal Sole una volta e mezzo la distanza della Terra, fa un freddo cane, ha un'atmosfera ridottissima, eppure è il pianeta meno ostile di tutti. Basta una settimana per andare sulla Luna, ci vogliono, insomma, per andare e tornare da Marte 2 anni fra andare e tornare e rimanere almeno un po', ed è un problema perché l'uomo non è mai stato nello spazio per più di un anno, poco più di un anno. È una grandissima sfida, 2030, forse gli americani, forse addirittura anche gli europei, chissà, forse ci stanno pensando anche i cinesi, insomma vedremo. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera è dedicato allo scontro civile che ha coinvolto la città di Saigon durante la guerra del Vietnam. Per molti, questo luogo rappresenta il dolore ed il terrore di ricordi che ancora bruciano. Un posto dove è stato versato del sangue e la vita è cambiata per sempre. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel giovedì 4 giugno alle 16:05. Sin dall'inizio, gli altipiani furono tra i campi di battaglia fondamentali. La loro importanza strategica fu sempre evidente. Chi occupava gli altipiani controllava il Vietnam. Fu qui che ebbe inizio la caduta di Saigon. Fino alla primavera del 1975, il Vietnam visse 2 anni di relativa calma. 2 anni che erano iniziati con il ritiro degli americani nel 1973. Ma i nordvietnamiti si stavano di nuovo muovendo, mettendo alla prova il sud per vedere se aveva la forza di resistere dopo il ritiro degli alleati statunitensi. Ciò che scoprì il nord cambiò la situazione. Il Vietnam del sud rispose abbandonando gli altipiani, spostando tutte le sue truppe in difesa di Saigon. Generale Hoang Dung, dell'esercito nordvietnamita. Fu una ritirata disordinata, perché noi avevamo bloccato le 2 vie che conducevano alle pianure. Si chiesero l'un l'altro quale via prendere. Soltanto la via 7, quella centrale, era accessibile. Li inseguimmo e bloccammo la loro marcia. Il resto delle nostre truppe li attaccò immediatamente dal retro. Distruggemmo completamente il secondo corpo d'armata in fuga. Il massacro generò un panico di massa. Milioni di sudvietnamiti presero ciò che poterono e si diedero alla fuga. La vittoria schiacciante sorprese persino i nordvietnamiti e li portò a prendere una decisione senza precedenti. Dopo più di 20 anni di combattimenti, il Politburo comunista decise di rischiare il tutto per tutto e fare l'impensabile: prendere Saigon e porre fine alla guerra. Il generale nordvietnamita Hoang Dung era al quartier generale quando giunsero gli ordini del Politburo. Distruggere ogni divisione, conquistare ogni città e infine attaccare Saigon e liberare il sud. I nordvietnamiti assegnarono al loro piano un nome: la campagna Ho Chi Minh. In soli 55 giorni cambiarono il corso della guerra e la vita di milioni di persone. Il bilancio delle vittime fu impressionante. In soli 6 giorni, 150.000 soldati sudvietnamiti furono dispersi o annientati. 15 province andarono perdute e macchine belliche per un valore di $1 miliardo andarono distrutte. A guardia di Saigon rimasero solo 90.000 soldati sudvietnamiti. L'esercito che avanzava velocemente verso di loro era 2 volte più numeroso. Usando Da Nang come una delle loro basi, i comunisti iniziarono a spingersi verso il loro obiettivo finale. Mentre le forze comuniste da Da Nang si spingevano verso sud, il loro impatto era devastante. A 3 giorni dal decreto del Politburo, la marcia delle truppe nordvietnamite spingeva davanti a sé una gigantesca ondata di 1 milione di rifugiati. Nonostante la tempesta che si stava preparando, la vita a Saigon procedeva come al solito. Ma la calma era solo apparente. La CIA censurava la stampa e i servizi radiofonici e cercava di impedire il passaggio ai profughi. Frank Snap era il principale analista della CIA a Saigon. Decidemmo di chiedere alla polizia sudvietnamita di cordonare Saigon, affinché i milioni di rifugiati che stavano fluendo lungo la costa, davanti all'esercito nordvietnamita, non si recassero a Saigon. Frank Snap era anche il confidente dell'uomo che aveva ordinato la censura, l'ambasciatore americano Graham Martin, che in realtà era l'uomo più potente del Vietnam del Sud. Martin era un ardente anticomunista, appositamente scelto da Henry Kissinger per passare la guerra ai sudvietnamiti e persuaderli che potevano vincerla, cosa che lo stesso Martin credeva con convinzione. Martin era un uomo del sud, come me. Parlava con un leggero accento del North Carolina. Era un aristocratico, al contrario di me, e sentiva di possedere il mondo. Era stato scelto per questo incarico perché era, a detta di alcuni dei suoi colleghi, quanto di più vicino ci fosse a un B-52. Ma era anche un uomo che aveva degli interessi personali in Vietnam. Aveva perso un figlio adottivo nei combattimenti. Non aveva intenzione di perdere questa guerra contro i comunisti. Ma Martin stava perdendo la guerra. Il 15 aprile del 1975, 140.000 truppe nordvietnamite erano a soli 30 km da Saigon. Intrappolati nella capitale, vi erano 9.000 americani e 2 milioni di vietnamiti che lavoravano per loro. La loro unica protezione era una sottile fila di Marines americani con 32 uomini a guardia dell'ambasciata statunitense. A metà aprile del 1975, Terry Bennington era di guardia all'ambasciata statunitense 24 ore al giorno. Tuttavia, nonostante l'imponente esercito nordvietnamita che avanzava verso la città, l'ambasciatore Graham Martin si rifiutò di organizzare un'evacuazione. Giunsero parecchi ufficiali di alto grado a Saigon da vari luoghi per pianificare, coordinare e organizzare un'evacuazione. E l'ambasciatore Martin li cacciò fuori dal paese. Inoltre, la CIA disponeva di informazioni incredibili. Sorprendentemente, aveva un agente infiltrato nello Stato Maggiore Comunista. La sera del 17 aprile, Frank Snap convocò l'agente e si diresse in un rifugio sicuro a Saigon per chiedergli un rapporto. Ci riferì che i comunisti sarebbero arrivati a Saigon al compleanno di Ho Chi Minh. Non si sarebbero fermati per nessun accordo. Qualsiasi trattativa riguardo a un eventuale accordo o addirittura una resa sarebbe stata soltanto uno stratagemma per confonderci e disorientarci. L'ambasciatore non ci credeva. Non riusciva a credere che la guerra era finita. Con tanti americani e vietnamiti che dipendevano da Martin, l'arroganza dell'ambasciatore era sconcertante. Dopo poche settimane, la sua riluttanza ad accettare l'inevitabile ebbe un impatto devastante. Mentre il Nord si avvicinava, i giornalisti di tutto il mondo si riversavano a Saigon. Tra loro c'era la canadese Hillary Brown, che lavorava per la rete televisiva ABC. Quello che trovai a Saigon era una strana, surreale atmosfera di normalità. Ricordo il mio primo pasto a Saigon con i colleghi. Mangiai in modo squisito in un ristorante francese. Presi un soufflé, una tarte tatin perfetta con una bottiglia di ottimo vino. Non me lo sarei mai aspettato. Alla Brown bastarono poche incursioni al campo di battaglia per capire la verità. A 100 km a nord di Saigon si poteva incontrare l'esercito nord-vietnamita che avanzava in massa. C'erano, credo, 4 divisioni a nord e forse 4 divisioni a sud. Ormai, nonostante i tentativi americani di nascondere la verità, la famiglia Nguyen aveva chiaramente capito che i nord-vietnamiti avevano intenzione di prendere Saigon. La 14enne Tania aveva sentito parlare ovunque delle atrocità perpetrate dai comunisti. Si diceva che ci avrebbero stuprato, che ci avrebbero torturato. Non ci avrebbero stuprato solo per piacere, ma per torturarci, pezzo dopo pezzo, tagliandoci le dita, strappandoci le unghie. Circolavano storie orribili. Ormai le truppe del Nord erano alla periferia della città. Al cuore della loro forza sorprendente c'era il 66esimo reggimento. Un reggimento con una missione straordinaria, la conquista del palazzo presidenziale. Alla guida c'era il tenente Pham Xuan Thai. Siamo stati molto felici di ricevere quell'incarico. Mentre ci preparavamo, ciascuno di noi scrisse sul proprio cappello la frase «Determinati a liberare il Sud e Saigon». Thank you. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario. Nel 1973 termina il coinvolgimento delle truppe americane nel Vietnam. Due anni più tardi, i soldati dell'esercito nord-vietnamita sono pronti a conquistare la roccaforte di Saigon. Il 28 aprile i comunisti sferrarono un primo attacco alla città per sondare il terreno. Hillary Brown stava filmando i rifugiati quando i nord-vietnamiti attaccarono il Newport Bridge, il confine non ufficiale della città. Ricordo di essermi voltata e di aver visto un enorme pennacchio di fumo nero che si levava dall'orizzonte di Saigon. Avevano preso il controllo di un paio di postazioni del governo a un lato del ponte e avevano preparato un nido di mitragliatrici in mezzo al ponte. Facevano fuoco su qualunque cosa si muovesse. Inoltre, sembrava ci fosse un'unità Vietcong sotto il ponte. Ma quel giorno, la vera devastazione doveva ancora arrivare. Le forze comuniste martellarono la base aerea di Tan Son Nhut. Mentre la pista fu ridotta a brandelli, Saigon divenne una città isolata e circondata da un esercito che si apprestava a dare il colpo di grazia. Mentre la base aerea di Saigon, Tan Son Nhut, era in fiamme, a Washington il presidente Ford convocava una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Prima del termine dell'incontro, i soldati nord-vietnamiti avevano invaso la base aerea. Restava solo un modo per lasciare Saigon: l'elicottero. Immediatamente dopo la riunione, Henry Kissinger telefonò a Graham Martin. Nel giro di 10 minuti fu autorizzata l'operazione Frequent Wind. Fu uno dei più grandi ponti aerei della storia americana, ma non bastò. Saigon era nel caos. Al centro della città l'ambasciata statunitense era circondata. Tutti sapevano che la fine era vicina e che l'ambasciata era l'unica via di fuga. Non lontano, in cima alla sua casa, Thani A Nguyen era impietrita. Ricordo di essermi sentita assolutamente sopraffatta. Lo spazio intorno a me era ampio e aperto, tuttavia mi sentivo in trappola. All'interno dell'ambasciata statunitense, il piccolo distaccamento dei Marines americani era rimasto sveglio per quasi 40 ore di seguito. Alle 15:12 arrivò il primo elicottero con rinforzi, i Marines della 7ª flotta al largo della costa. Erano state allestite due zone di atterraggio. Una nel parcheggio per i grandi CH-53, l'altra sul tetto per i più piccoli CH-46. Quando iniziò il ponte aereo, il sergente Terry Bennington gestiva la zona sopra il tetto. Sarò franco, li abbiamo stipati sugli elicotteri come fagotti. A volte riuscivamo a farci entrare anche 50 persone. Ci sono stati casi in cui i CH-53 hanno avuto difficoltà a decollare. Stesso discorso sul tetto per i CH-46. Ci facevamo salire più gente possibile. Ormai c'erano 10.000 vietnamiti schiacciati contro la recinzione dell'ambasciata. Tutti tentavano disperatamente di entrare. Il caporale Mike Sweeney era uno dei due Marines che erano di guardia all'entrata principale. Ce n'erano a centinaia. No, centinaia di migliaia. Un mare infinito di gente schiacciata contro il cancello. File infinite di persone a perdita d'occhio tutti intorno all'ambasciata. Anche i giornalisti si affrettavano per andarsene. Quando Hillary Brown lasciò il suo albergo, il suo interprete vietnamita arrivò con la sua famiglia supplicandola di portarli con sé. Era impossibile in quella situazione di paura, di panico. Così gli dissi che non lo potevo aiutare. Allora lui scomparve tra la folla e questo pensiero mi tormenta da allora. Alla fine arrivammo all'ambasciata statunitense, che era circondata da questa massa in subbuglio di sud-vietnamiti isterici che volevano disperatamente superare il muro per mettersi al sicuro. Uno dei Marine mi issò con il suo grande braccio robusto. Mi sollevò come se fossi un pezzo di carne. Mentre un altro, l'altro Marine, cacciava a calci i sud-vietnamiti oppure li colpiva con il calcio del suo fucile. Anche tra le mura dell'ambasciata c'era il pandemonio. La CIA stava strappando e bruciando disperatamente i documenti, mentre la gente continuava ad arrivare. I corridoi erano un labirinto di gente. C'erano centinaia di vietnamiti stipati all'interno dell'ambasciata che cercavano di raggiungere la piattaforma per elicotteri sopra il tetto. Non appena gli americani fecero atterrare i vietnamiti alleati, iniziò ad arrivare l'esercito sud-vietnamita. Arrivarono in volo e atterrarono senza avvisare, senza chiedere autorizzazioni, senza niente. Questa situazione gettò nel panico la Marina Militare e i Marines, perché le piattaforme erano piene dei loro elicotteri. Non appena gli elicotteri atterravano, venivano allontanati dalle piattaforme per fare spazio ai velivoli per l'evacuazione. Alcuni piloti decisero addirittura di ammarare. Ormai il ponte aereo andava avanti da 6 ore. 4.500 persone erano state evacuate, ma ce n'erano ancora 1 migliaio dentro l'ambasciata e altre decine di migliaia erano bloccate in tutta la città. Inoltre, le comunicazioni tra Saigon e Washington si stavano per interrompere. A mezzanotte, gli ultimi civili americani dell'ambasciata statunitense si preparavano a partire, anche se c'erano ancora migliaia di vietnamiti ai cancelli e all'interno della recinzione. Siamo saliti per le scale che conducevano alla piattaforma sul tetto e c'erano 30 o 40 vietnamiti in attesa di salire su un elicottero. I Marines li hanno spinti di lato affinché potessimo uscire. Io provavo una grande vergogna. Non riuscivo a guardarli negli occhi perché stavano perdendo il loro posto per partire. C'era voluto troppo tempo per dare inizio all'evacuazione. Mentre scendeva la notte, la famiglia Nguyen e i parenti erano in preda al panico. Il padre di Tania era un diplomatico. Se il Nord avesse preso Saigon, poteva essere giustiziato. Comprendendo che era inutile tentare di scappare attraverso l'ambasciata americana, i Nguyen decisero di aspettare che facesse giorno per fuggire in barca. Fu una decisione che cambiò la loro vita. Mentre gli ultimi civili americani partivano, Washington chiese di sapere quanti vietnamiti fossero rimasti all'interno della recinzione. L'ambasciatore Graham Martin azzardò un'ipotesi. 726. Fu un tragico errore, poiché erano più di 1.000. La risposta di Washington fu secca e brutale. Terry Bennington era nell'ufficio di Graham Martin quando l'ambasciatore acconsentì con riluttanza alle richieste di Washington. Fu in quel momento che la stanchezza lo colpì fino al punto di non permettergli di fare più niente e si rassegnò. E così io, Mike Segura, Jim Kim e le altre guardie del corpo personali lo accompagnammo sul tetto. Gli consegnammo la bandiera americana, lo mettemmo sull'elicottero con il suo entourage, che contava 9-10 persone, e lo facemmo partire. Con l'ambasciatore finalmente in volo, al sergente Bennington e ai restanti Marines rimase un ultimo orribile compito: abbandonare i vietnamiti all'interno della recinzione dell'ambasciata. Iniziamo a far ritirare gradualmente i Marines. Ma quando i vietnamiti capirono cosa stavamo facendo, iniziarono a precipitarsi verso di noi. Non dimenticherò mai come un soldato della Marina prese un'enorme tavola ed iniziò a farla oscillare avanti e indietro, finché non furono entrati tutti i Marines. Poi entrò lui. L'ambasciata aveva delle massicce porte che forse pesavano circa 230 kg l'una. Erano enormi. Una volta chiusi fuori i vietnamiti, i Marines si diressero verso il tetto. Nelle successive 4 ore, mentre l'alba cominciava a spuntare sopra Saigon, gli elicotteri continuarono a trasportare i Marines, finché non ne rimasero 11. Poi i voli si interruppero. A peggiorare la situazione, in quel momento i nordvietnamiti entrarono nella città. Mentre il tenente Pham Chuan Thai e il 66esimo reggimento si dirigevano verso il palazzo presidenziale, dal tetto dell'ambasciata, Terry Bennington scorse qualcosa all'orizzonte. E in quel momento avvistammo sopra l'area di Vung Tau un CH-46 in arrivo. Ormai il 66esimo reggimento stava per compiere il suo arrivo al palazzo presidenziale. Mentre il tenente Tay saliva sul tetto del palazzo, poco lontano sul tetto dell'ambasciata statunitense, gli 11 Marines, gli ultimi soldati americani in Vietnam, finalmente fuggirono. Una volta decollati, tirammo tutti un sospiro di sollievo. Ma eravamo ancora cauti perché noi partimmo alle 7.59. L'esercito nordvietnamita sferrò il suo attacco alle 8, perciò eravamo ancora sopra Saigon quando iniziò l'assalto. Al palazzo, l'intero governo sudvietnamita, incluso il presidente Zung Van Minh, aspettava all'interno della sala del gabinetto. Il tenente Tay fu il primo a trovarli. Il signor Minh si avvicinò e mi disse: «Abbiamo aspettato l'arrivo delle truppe rivoluzionarie. Così possiamo trasferire a voi il potere». A quel punto urlai: «Voi siete i nostri nemici. Siete stati catturati come prigionieri di guerra. Vi dovete arrendere. Non ci sarà trasferimento di potere». Alle 11.30 di mattina, il presidente Minh annunciò la resa del Vietnam del Sud. Qualche minuto dopo, la notizia raggiunse il quartier generale dei nordvietnamiti, a nord di Saigon. Dopo aver ricevuto la notizia che Minh si era arreso e che le nostre unità avevano conquistato gli obiettivi, pensavamo che la guerra fosse finita. Per me quel momento fu assolutamente indimenticabile. Sì, non ci sono altre parole. Io ero contento. Battei le mani. E mentre abbracciavo i miei compagni, io ero in lacrime. Sì. Ma mentre i vincitori del Nord versavano lacrime di gioia, per molti sudvietnamiti stava per consumarsi una nuova tragedia. Quando i comunisti presero il controllo di Saigon, segnarono il destino della signora Nguyen e della sua famiglia. Dopo pochi giorni, suo marito fu catturato e rinchiuso in un campo di rieducazione. 7 anni dopo, ormai vicino alla morte, fu finalmente rilasciato e i Nguyen fuggirono in Canada. C'è voluto molto tempo, ma la signora Nguyen ha deciso di tornare. Dal 1999, la signora Nguyen torna spesso a Saigon con i fondi che raccoglie nel paese in cui vive attualmente, il Canada. E ogni anno aiuta migliaia di vietnamiti a recuperare la vista. Voglio tornare spesso per aiutare il popolo vietnamita. Ho vissuto qui da quando ero bambina. Ci ho passato tutta l'infanzia. Io amo il mio paese e amo il popolo vietnamita. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel giovedì 4 giugno alle 16:05. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.